1. Dio è amore. 2. La comunione con il fratello dipende dalla comunione con Dio. 3. La comunione fraterna ci aiuta a togliere comportamenti scorretti. 4. Conosciamo Dio se osserviamo i Suoi comandamenti. 5. Si è figli di Dio se siamo odiati dal mondo e si amano i fratelli. 6. Conosciamo l'amore di Dio dal Figlio che ci ha dato. 7. Amo i figli di Dio quando amo Dio e osservo i Suoi comandamenti. 8. I fatti accertano se siamo nella verità. 9. Chi crede nel nome di Gesù Cristo ha vita eterna. 10. Saremo simili a Cristo. Ottobre 2009. Ellero. Dopo quasi mezzo secolo di vita cristiana, nel fare il bilancio del mio passato devo ammettere che in molti campi ho una certa confusione. Sono confuso perché non ci sono più dei valori stabili. Certi principi che erano inderogabili per i credenti di 50 anni fa non ci sono più. Non è solo una mia opinione, ma anche di alcuni teologi come John Stott, il quale scrisse: "L'epoca che cade a metà del XXI secolo è caratterizzata da un'insicurezza di fondo. Di continuo si sviluppano nuovi schemi sociali e politici. Questa mancanza di sicurezza si riflette nel mondo della mente e dello spirito. Anche la Chiesa cristiana, che ha ricevuto un regno che non può essere scosso, dice ora il suo messaggio. Sommessamente, con timidezza e senza convinzione. Dilaga la diffidenza per il dogmatismo e si preferisce l'agnosticismo e il libero pensiero. Molti cristiani sono in preda all'incertezza e alla confusione." Epistola di Giovanni GBU 1970. Se già alla metà dello scorso secolo la situazione era questa, cosa dire ora, quando praticamente non ci sono più assoluti? Come ci si può sentire? Dopo che per anni e anni si è sentito predicare certi assoluti, i quali venivano accettati senza riserve, mentre oggi vengono discussi, se non addirittura annullati. Quando si parlava di omosessualità, tale pratica veniva condannata senza discussioni, mentre oggi viene anche approvata e benedetta da uomini che predicano l'Evangelo e dicono di essere seguaci di Cristo. Il relativismo è entrato non solo negli strati sociali, ma anche nelle menti di coloro che si professano cristiani. È triste leggere i testi di teologi di fama così impegnati a sostenere che gli scrittori biblici non erano a conoscenza delle scoperte scientifiche, per cui quello che hanno scritto è soggetto ad errori, come se avessero scritto sotto il loro discernimento umano. Mentre la parola di Dio dice in modo inequivocabile che gli scrittori biblici hanno scritto da parte di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Per togliere ogni dubbio, infatti, possiamo leggere: punto, nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo. 2P 1.2021. Se chi scrive sotto l'impulso dello Spirito di Dio sbaglia, chi dice allora la verità? Sono confuso come predicantico testamento OR perché anche le cose PLM Nuovo Testamentuari vengono discusse e ridiscusse. Occorre fare una precisazione. Discutere ciò che si ascolta è buono e si deve fare. Accettare tutto a scatola chiusa non è sempre segno di saggezza. Nella storia della Chiesa nascente si narra che gli abitanti di Berea esaminavano ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano come diceva l'Apostolo Paolo. Ottimo! Nonostante Paolo fosse apostolo, cioè inviato da Cristo, i bereani volevano vederci chiaro, ma quando si ascolta, si ascolta. E poi si sente dire: io sono libero di fare quello che mi pare, è segno che si tratta di qualcosa di molto serio e grave. Perché un tale atteggiamento palesa che l'autorità rivestita dal predicatore è messa in discussione. Se fosse solo questa, pazienza. Ma quando si mina un'autorità, si minano anche le altre, come quella dei conduttori spirituali, dei genitori e quella civile. Se io non voglio osservare un divieto del codice stradale, significa che mi sento libero anche di non voler osservare altri divieti. Una cosa è sbagliare, altra è rifiutare di sottomettersi. Perciò, mettere in discussione è anche un atto di intelligenza. ma un dibattito finalizzato a voler fare quello che si vuole o a cercare di aver ragione non è un bene per nessuno. Sono confuso anche quando una chiesa ascolta a parola di Dio e non adegua il suo cammino al volere di Cristo. Ho presente quei conduttori quali, volendo chiarezza su come comportarsi in merito alla cena del Signore, mi chiesero un parere. Dopo che ebbi esposto loro il mio pensiero, mi ringraziarono dicendo che avrebbero seguito quanto udito. Ma nulla cambiò in seguito. Essi continuarono a fare esattamente come in precedenza. Per me è incredibile. Se non fossero stati d'accordo, non avrei avuto nulla da dire, ma poiché avevano testimoniato di voler cambiare, avevano una grande responsabilità. E è successo esattamente ciò che successe al profeta Ezechiele, al quale Dio disse: «Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene uno strumento. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica». Ezechiele 33:2-33. Cambiano i tempi e le stagioni, ma il cuore dell'uomo non cambia mai. Quando una chiesa ascolta un predicatore, non può rimanere indifferente. Se questo parla male, deve farglielo notare. Ma se parla bene, essa deve ubbidire. La più brutta posizione nell'ascoltare la parola di Dio è l'indifferenza, la tiepidezza, posizione che costringerà Cristo Gesù a vomitare dalla sua bocca chi ha un tale atteggiamento. Sono confuso perché pochissimi chiedono chiarime Nuovo Testamento Kerba. È inevitabile che, come ogni predicatore, anch'io faccia affermazioni forti e taglienti, e che, piuttosto di essere interrogato da chi mi ascolta per ricevere ulteriori chiarimenti, venga giudicato pesantemente. Non è questo un atteggiamento caritatevole. Ricordo di quella sorella che mi aveva udito dire che l'ideale per una coppia era di non avere un figlio solo, ma due o tre. Mi giudicò perché secondo lei io predicavo bene, ma razzolavo male, poiché anche io ho solo un figlio. Come siamo senza discernimento. A volte, innanzitutto, per avere più figli occorre il consenso di tutti e due i genitori, e poi teniamo sempre presente il volere di Dio perché il numero delle coppie che non hanno tanti figli quanti ne desiderano è maggiore di quanti sono stati assecondati nei propri desideri. Sono confuso perché certe convinzioni che ricevono i miei ascoltanti Nuovo Testamento ORI non provengono da me. Quando parlo in genere propongo il risultato di un lungo processo di ragionamento e di ricerca. È inevitabile che, avendo poco tempo a disposizione per esprimermi, non possa spiegare per intero il percorso del mio pensiero e dunque molte riflessioni risultano riduttive. Ricordo ancora una coppia di sposi alla quale insegnavo la parola di Dio davanti una classica domanda. Dove Caino ha trovato moglie, da loro postami non ebbi problemi a rispondere, ma poiché la serata volgeva al termine, mi promisi di chiarire la volta susseguente. Essi però insistettero perché rispondessi subito, ma io rimasi fermo nel mio proposito. Venne la sera del chiarimento e furono più che soddisfatti. Poi chiesi: se io vi avessi risposto in 5 minuti, avreste capito? Mi risposero di no e mi ringraziarono della mia fermezza. Chi predica ha il dovere di essere chiaro il più possibile, ma anche la Chiesa e il singolo credente hanno il dovere di collaborare nel chiedere spiegazioni. Altrimenti tacciano. Sono confuso sopra Antico Testamento tutto perché dalla Bibbia gli uomini traggono le conclusioni che vogliono. E è incredibile come da un unico testo i cattolici traggano la salvezza per opere. I testimoni della torre di guardia cercano di dimostrare che Gesù non è Dio, certi atei cercano disperatamente di mettere in evidenza che la Bibbia è piena di errori, mentre i credenti vi trovano dottrine che per altri sono inesistenti. Come comportarsi? Grazie a Dio possiamo trovare nella scrittura affermazioni che danno delle certezze e che gli scrittori biblici esprimono perché il credente non sia confuso. Forse non a tutti risulta evidente, ma il cristianesimo non insegna solo a vivere bene moralmente. Non insegna solo a vivere bene con il prossimo e fargli del bene. Non porta solo un progresso economico dove viene accettato, ma produce delle certezze senza eguali se confrontate con le religioni vigenti. Non si può dire con altre religioni, perché il cristianesimo non è una religione nel senso comune del termine. Infatti, il dizionario afferma che una religione è quel complesso di comportamenti che corrispondono al sentimento di dipendenza della creatura dal mondo divino. E, in questo, si può rispecchiare anche il cristianesimo. Ma quando il rapporto tra la creatura e il Dio trino, rivelato nelle scritture ebraiche, si ferma ad un legame tecnico o legale, allora questo non è più cristianesimo. In una semplice e concisa definizione, il cristianesimo è la libera risposta d'amore da parte dell'uomo, obbligata unicamente dall'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo. Perciò è comprensibile non annotare il cristianesimo tra le tante religioni, anche se non vi è rapporto più fuso e intimo tra la creatura e il Dio trino, ancora più forte del rapporto matrimoniale. E chi lo sperimenta sa quanto sia vero. Proprio perché vi è questo rapporto, il credente possiede delle certezze che non sono il prodotto di ciò che pensa o ritiene vero, ma sono il risultato di esperienze e di rivelazioni, che lo rendono sicuro come l'oggetto al quale si è affidato, che in questo caso è niente meno che Cristo. E, come se io volessi avere la certezza della testimonianza di una corda, se potesse parlare, che dice di essere in grado di sostenermi nell'attraversare un burrone. Prima di usarla sul burrone la provo all'altezza di un metro da terra, poi, per essere sicuro, riprovo la sua robustezza con un carico di 50 kg sulle spalle e, infine, per essere ancora più sicuro, come porto altri due amici. Così, acquisito una certezza assoluta attraverso il burrone, appendendomi alla corda. Ora, la corda era certa di potermi sostenere e solo dopo aver avuto con essa una certa esperienza, la sua certezza è diventata la mia. Così, anzi, molto di più, è con Cristo. Dopo aver realizzato certe esperienze con Lui, si acquisiscono le certezze che gli sono proprie. Sono certezze accertanti co testamento e 2 terametri 3.14. Noi prenderemo spunto di queste certezze soprattutto dalla prima lettera di Giovanni, considerando le parole da lui espresse non come provenienti dall'Apostolo ma da Cristo stesso, che le ha fatte scrivere sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, come ha detto Gesù. Ma quando verrà a lui lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. GV 16.1-15. E con questa premessa che prendiamo in esame 10 certezze cristiane. Occorre fare una premessa. L'incertezza e la confusione che possono caratterizzare i cristiani di oggi erano presenti già al tempo della Chiesa nascente. Lo dimostrano tutte le lettere scritte dagli Apostoli e anche i Vangeli. L'Evangelista Luca, per esempio, nel redare il suo Vangelo premette di scrivere per dare certezza delle cose che venivano insegnate, LC 1.4. Evidentemente già allora circolavano narrazioni errate dei fatti avvenuti, come per esempio il Vangelo apocrifo di Tommaso, dal quale ancora oggi si traggono fantasie in merito a Gesù. Inoltre, al tempo della Chiesa nascente, dilagava l'agnosticismo, cioè la pretesa di possedere una speciale rivelazione e una conoscenza superiore. In pratica, come oggi nelle sette, c'erano delle persone che pensavano di avere una marcia in più. Vi era pure il misticismo, cioè la credenza nella possibilità di conoscere Dio, l'infinito e la verità assoluta immediatamente, con intuizione e sentimento piuttosto che con l'osservazione e il ragionamento, atteggiamenti ancora oggi imperanti tra molta gente, la quale troviamo condannata nella prima lettera di Giovanni. E per questo che Giovanni spesse volte usa, senza mezzi termini, parole forti di condanna come «se diciamo che abbiamo comunione con Dio» e camminiamo nelle tenebre e noi mentiamo, 1.6, oppure, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, 1.8, e su questa linea continua col dire, se diciamo di non aver peccato, facciamo Dio bugiardo, 1.10, e ancora, chi dice io l'ho conosciuto me ne non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. 2.4. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo. Parole forti, ma Giovanni vuole coerenza tra ciò che si dice e che si fa, e chi non vuole questo? Perfino tra le persone moralmente peggiori, come assassini, ladri, terroristi, si chiede coerenza. Se uno dice o promette una cosa e non la mantiene, come può essere creduto? Se abbiamo per natura questa inclinazione, perché non dobbiamo chiedere ed esigere coerenza anche nel campo della fede? Se un musulmano pregasse Maria e i santi, sarebbe accettato dagli altri musulmani come tale? Così, come può essere ritenuto cristiano colui che non osserva i comandamenti di Cristo? Non è forse ritenuto un bugiardo? Una prima certezza, cristiana Dio è amore. Giovanni scrive la sua prima lettera per dare delle certezze cristiane a coloro che dicono di essere cristiani e per verificare se quello che dicono corrisponde alla verità. Non è una cosa da poco, perché non vi è nulla di più facile che ingannarsi, soprattutto nel campo della fede. Prendiamo dunque in considerazione e in esame le affermazioni di Giovanni. La prima di queste è, or questo, è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo, Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1.57. Giovanni inizia col dire che se anche è vero che Dio ha detto tante cose, in definitiva il tutto si può riassumere in un solo messaggio, che Dio è luce e in lui non vi sono tenebre alcune. Il termine luce e il suo opposto tenebre appartengono al linguaggio religioso e devono essere capiti, perché Dio non è una lampadina che illumina le persone. E ancora una volta usiamo la Bibbia per capire il significato delle parole bibliche. Il significato delle parole luce e tenebre è spiegato da Giovanni stesso poco più avanti. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. 2.9.11. Dunque, l'odio sono le tenebre, mentre il suo contrario, luce, è l'amore. Questo in armonia con ciò che Giovanni scrive per due volte, cioè che Dio è amore, mentre abbiamo letto all'inizio della lettera che Dio è luce. Perciò Giovanni, con queste affermazioni, non sta dicendo qualcosa sul carattere di Dio, ma sta parlando niente meno che dell'essenza del Dio trino. Da notare che in nessuna parte della scrittura è scritto così. Chiaramente che Dio è amore, neppure nelle lettere di Paolo, che di cose ne ha dette tante, avendolo Giovanni ripetuto due volte, rende certo il fatto che nel Dio dei cristiani non vi è ombra di odio o sinonimi di esso. Perché questa precisazione? Perché nel guardare ciò che succede in questo mondo, si può essere tentati di pensare ad un Dio cattivo o sadico, e proprio per tutto il male che vediamo, forse, l'atto di fede più grande di un cristiano è credere che, nonostante tutto, l'amore di Dio trova la sua espressione in tutto ciò che egli dice e fa. Questa è, e deve essere, la prima certezza in assoluto. Una seconda certezza cristiana meno L a comunione con il FR, Antico Testamento, e LLO dipende dalla comunione con Dio. Stabilito che Dio è amore, cioè che tutto quello che fa e permette è volto al bene della creatura, per forza di cose, meno dice Giovanni chi dice di avere comunione con Dio, e si rivolge specialmente agli gnostici, cioè a coloro che avevano la pretesa di possedere una speciale rivelazione e una conoscenza superiore, deve anche dimostrarlo con un cammino coerente, cioè un cammino caratterizzato dall'amore. E chi non ama chi è stato da Dio rigenerato? Cioè chi non ama i figli di Dio, che sono diventati tali non per una eredità spirituale, non uno sforzo proprio, non per mezzo di un sacramento datogli da un uomo, ma solo per mezzo di un atto di fede compiuto una volta per sempre. Ter Giovanni è un bugiardo, anche se confessasse fino alla fine dei suoi giorni che ama Dio. La confessione verbale di una persona non deve essere creduta a priori, ma deve essere provata in se stessa e nella sua relazione con la verità fondamentale che Dio è amore. Giovanni fornisce l'amore come mezzo di indagine mediante il quale giudicare chi professa il cristianesimo e si dice cristiano. Solo con un cammino privo di contraddizioni è possibile credere al prossimo. Diversamente, queste persone cadono nella condanna espressa nella parola di Dio. Essi fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le opere, essendo abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona. Tito 1.16. Come è possibile che chi si professa un cristiano e dice di osservare i comandamenti di Dio, viva o cammini assieme a persone abominevoli, disubbidienti e incapaci di ogni opera buona? Proprio perché questo non è possibile, Giovanni mette in evidenza che la comunione fraterna è possibile e realizzabile se ogni singolo membro cammina nella luce, cioè agisce per amore e compie la volontà di Dio. Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. Presa alla lettera, questa verità significa che quando una comunità è divisa, o quando i credenti non vivono in armonia, ciò non è dovuto tanto al peccato o ad altro, ma accade perché qualcuno non ha una giusta relazione con Cristo, il suo Salvatore. Solo in seguito, quando questo qualcuno si comporterà ingiustamente, la conseguenza più immediata sarà la mancanza di comunione con chi cammina nella luce o nell'amore. La divisione orizzontale è la conseguenza di una divisione verticale. Perciò la comunione fraterna è il risultato di una comunione con Dio. Questa è una seconda certezza cristiana. Una terza certezza cristiana, meno L a comunione FR Antico Testamento e RNA, aiuta a togliere comportamenti Nuovo Testamento scorretti. Se la vera comunione con Dio produce la comunione fraterna a sua volta produce un altro frutto, cioè la purificazione da ogni peccato. In verità Giovanni dice che è il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato, ma il sangue qui rappresenta tutte le virtù che procedono dalla sua morte per i nostri peccati, tra le quali appunto vi è la comunione fraterna. Ma sorgono alcune domande. Cosa si intende per purificazione dei nostri peccati? Il credente non ha già ottenuto il perdono dei propri peccati? Cosa si intende per purificazione? Perdono e purificazione sono sinonimi, o vi è una differenza? In senso lato i termini perdono e purificazione possono avere lo stesso significato, ma mentre il termine perdono ha più il senso di condonare una colpa, la purificazione porta a pensare il togliere qualcosa che non deve esserci, come togliere delle scorie o impurità nei metalli. Così, una volta che il credente è stato perdonato, ha bisogno di essere purificato da certi comportamenti che non sono in armonia con la volontà di Dio e, cosa chi, è di meglio per mettere in risalto certi errori se non la comunione fraterna. Se è vero che il matrimonio è quel rapporto tanto intimo da svelare anche solo le ombre dei nostri limiti e mancanze, la comunione fraterna è il secondo rapporto più intimo in grado di svelare i nostri più piccoli difetti. In questo modo, mediante la comunione fraterna, ci rendiamo conto che la pazienza che pensavamo di avere non è poi così abbondante come scopriamo di essere molto permalosi quando qualche fratello ci fa notare alcune nostre debolezze. La comunità nella quale viviamo è il banco di prova più severo che io conosca, dopo il matrimonio. Ho presente tante persone che, all'entrata nella vita comunitaria, sprizzavano da tutti i pori amore e zelo, ma che, in seguito, davanti a offese o incomprensioni, ho visto lasciare con strana indifferenza ogni impegno e gesto caritatevole nei confronti della Chiesa alla quale appartenevano, per poi rivolgersi ad altre comunità. Questo, anche se non viene fatto notare, è adulterio spirituale, perché lasciando il primo amore, essi rivolgono le loro attenzioni caritatevoli verso altri che sono estranei. L'importante per queste persone è non avere comunione con i fratelli che Dio ha scelto per loro. Ma il vero amore meno, che è il vincolo della perfezione meno, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si separa dagli altri per offese alla reputazione, ma soffre ogni cosa, sopporta ogni cosa, lasciando a Dio il compito di perfezionare se stesso e gli altri. Una terza certezza cristiana è dunque di credere che nel camminare nell'amore con i figli di Dio ci si aiuta vicendevolmente a migliorare moralmente. Il libro dei Proverbi dichiara: il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. PR 27:17. Per chi non si lascia correggere, il giudizio di Dio è severo. Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. PR 12:1. E quando Dio ci dice che siamo degli stupidi, vuol dire che lo siamo veramente. Una quarta certezza cristiana: conosciamo Dio se osserviamo comandame nuovo testamentoi, i suoi. Un'altra certezza cristiana che ha un'importanza vitale per i credenti di ogni epoca, ma soprattutto all'inizio del XXI secolo, un secolo caratterizzato dai crolli di certi valori professati per secoli e secoli, è quella relativa al conoscere Dio. L'anelito di conoscere la divinità, l'assoluto, è talmente forte che molte persone dicono di conoscere Dio anche se non è vero. A volte questo comportamento non è dettato da ipocrisia o doppiezza, ma questo desiderio di avere una relazione personale e profonda con Dio è talmente ambito che ogni tipo di incontro mistico è attribuito ad una relazione con il Dio Trino rivelato nelle Scritture. Del resto, come abbiamo detto, già al tempo della Chiesa nascente dilagava questo atteggiamento sia nello gnosticismo, cioè la corrente filosofica avente la pretesa di possedere una speciale rivelazione e una conoscenza superiore, come pure nel misticismo, ossia la credenza nella possibilità di conoscere Dio, l'infinito e la verità assoluta immediatamente con intuizione e sentimento piuttosto che con l'osservazione e il ragionamento. Per cui, come dice il libro dell'Ecclesiaste, non vi è nulla di nuovo sotto il sole. Cosa dice Giovanni in merito al conoscere Dio? Come può parlare di certezza anche in questo campo così dibattuto tra i teologi e religiosi? Quali prove propone Giovanni per dimostrare che veramente si conosce Dio? Ecco il suo discorso. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui, è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. 1 GV 2.36. Ancora una volta Giovanni non fa un discorso filosofico. Non si perde in molte parole. Cosa, del resto, anche questa non nuova. Mi viene in mente il libro di Giobbe, nel quale viene riportata la conversazione tra Giobbe, che soffriva, e i tre amici molesti che gli rivolgevano tanti bei discorsi moralistici. A un certo punto Giobbe non ne può più e dice: «I vostri detti memorandi sono massime di cenere, i vostri migliori argomenti non sono che argomenti d'argilla». GB 13.12. L'apostolo Giovanni non è caduto in questa condanna. Quale prova ha proposto Giovanni a chi dice di conoscere Dio? Osservare i suoi comandamenti. Sembra una conclusione semplicistica, ma, del resto, non se ne trova una migliore. Innanzitutto, Giovanni non ha fatto appello né ai sentimenti e neppure alle proprie convinzioni. Purtroppo, chi afferma di amare Dio si esprime nella stessa maniera di quando afferma di amare il prossimo, la fidanzata o il coniuge. Sentendo un certo trasporto emotivo nei suoi confronti, pensa che questo trasporto sia già amore. Niente di più falso. I sentimenti fanno parte del nostro essere e non sono stabili, per questo certi giorni ci sentiamo su, altri ci sentiamo giù, ma in tutto questo non si può parlare di amore. Siamo semplicemente esseri emotivi e per certuni tanto emotivi da sentire il cambiamento del tempo e variare a causa di questo il proprio umore. In merito alle persone, le cose cambiano poco. Medici e psicologi hanno testimoniato di mamme che, pur provando amore, spassionato verso il loro figlio, sentivano il desiderio di buttarlo giù dalla finestra. E alcune lo hanno fatto. Era forse odio? Non credo. Ma se il gesto di buttarlo giù dalla finestra non era odio, neppure si trattava di amore quando lo coprivano di baci e di carezze. Ecco perché non bisogna fare dei sentimenti la prova del nostro amore e delle nostre convinzioni che stiamo amando. Se questo vale per le nostre relazioni umane, quanto più vale per sapere se si conosce Dio, cioè se lo si ama? L'unica risposta inequivocabile al quesito se veramente amo Dio è ubbidire a ciò che Lui ha detto. Questo presuppone due verità. La prima è che devo conoscere ciò che Lui ha insegnato, consapevolezza alla quale posso giungere solo tramite la parola di Cristo espressa nella Bibbia. Sì, perché il Dio Trino si è rivelato e ha palesato la sua volontà tramite Cristo e nulla ci è da aggiungere a ciò che ha detto. Purtroppo nell'introduzione al Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo che le fonti principali della tradizione della Chiesa sono la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la liturgia e il Magistero della Chiesa. Pag. 19. Perché questa precisazione? Per far polemica? Assolutamente no, solo per far comprendere meglio ciò che Giovanni ha detto. Noi dimostriamo di aver conosciuto Dio quando osserviamo i Suoi comandamenti e non qualcosa d'altro, o i comandamenti d'uomini che annullano la parola di Cristo. Se è possibile disubbidire la volontà di Dio quando si compie la volontà di Cristo, quanto più quando si mette in pratica la volontà degli uomini? Ma com'è possibile trasgredire la volontà di Dio nel compierla? È sufficiente tenere presente gli scribi e farisei al tempo di Gesù. Queste persone religiose leggevano la parola di Dio, come Dio aveva detto. Pregavano, come Dio aveva loro detto. Facevano elemosina, come Dio aveva detto. Facevano proseliti, come Dio aveva detto. Osservavano la legge cerimoniale, civile e cultuale, come Dio aveva loro detto. Ma le loro motivazioni erano sbagliate, e per questo erano condannati. Se questi religiosi sono stati severamente disapprovati nel compiere in modo sbagliato la volontà di Dio, cosa dire di quei religiosi che non fanno la volontà di Dio perché hanno fatto dei sacramenti un mezzo per ricevere benedizioni eterne? Hanno fatto delle opere un mezzo di salvezza? Hanno fatto della religione lo strumento per accedere a Dio? Hanno usato i loro dogmi come macchine di distruzione verso chi non li accetta e la loro autorità come scusa per sfogare il loro odio? Era difficile, se non impossibile, solo pensare che chi si comporta così ha conosciuto e conosce il vero Dio Trino delle Scritture. Ecco perché Giovanni conclude accusando di essere un bugiardo chi professa di conoscere Dio, ma poi non ne osserva i comandamenti. E se lo dice Giovanni, chi crede alla sua parola può dire che chiunque sostiene, anche con la più profonda convinzione di essere un cristiano e di amare Dio, tuttavia senza osservarne i comandamenti, è uno che non dice la verità e sta mentendo. Questa conclusione non è per offendere moralmente il prossimo, ma semplicemente per dire che il suo parlare deve essere in armonia con il suo comportamento, diversamente l'unico appellativo che gli si può attribuire è bugiardo. Bugiardo, come tutti coloro che si professano cristiani e vivono nell'adulterio, che sfruttano e rubano il prossimo, che mentono per disonesto guadagno, che non mancano a nessuna funzione religiosa e, tuttavia, poi ritengono Cristo una mera figura simbolica, che leggono la Bibbia e pregano, covando nel loro cuore odio per chi ha osato ostacolare la loro volontà. Giovanni non vuole equivoci. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui. I credenti non hanno coscienza di essere in Cristo in virtù delle loro convinzioni religiose e neppure per il fatto di essere stati battezzati, ma dal proprio vivere in conformità alla parola di Dio. Questa è una quarta certezza cristiana. Una QUI Nuovo Testamento a certezza cristiana meno SI e figli di Dio se SI è o di Antico Testamento dal mondo e se SI amano i figli di Dio. Vi è un altro dubbio non poco inquietante ed è quello di sapere se veramente si è figli di Dio, se si è realizzata la nuova nascita, se si fa parte del regno di Dio e della Chiesa. Quanto è difficile avere una certezza in merito, con tutte le religioni esistenti, con tutte le convinzioni possedute dagli uomini e a causa delle quali la maggioranza è disposta anche a dare la vita, anche per certe fedi professanti, assurdità palesi. Com'è possibile sapere e avere la certezza di appartenere al vero Dio, di avere realizzata quell'esperienza spirituale mediante la quale posso essere certo di essere un figlio di Dio? Una cosa è certa, non è possibile mediante la sola professione verbale, perché tutti possono dire di tutto senza, per questo, esserne coinvolti. Ecco perché ancora una volta occorre guardare i risultati pratici nella vita. L'Apostolo Giovanni, per poter dare la certezza di essere dei veri figli di Dio, attesta: non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi. Dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. 1 GV 3.1.3.16. Prima di spiegare il motivo della certezza di essere figli di Dio, Giovanni fa una premessa: di non essere meravigliati se il mondo ci odia. Essere odiati non piace a nessuno, per questo tutti facciamo il possibile per essere amati e accettati. Perciò, quando si è odiati, per forza di cose si sta male, ma soprattutto i figli di Dio provano meraviglia. Perché non ci sono forse persone che in questo mondo sono odiate? Perché dovrebbero i figli di Dio essere meravigliati se il mondo li odia? Per il fatto che per il loro comportamento non dovrebbero essere odiati, dato che non fanno male a nessuno. In genere meno, ed è anche normale, meno. Gli uomini odiano chi ha un comportamento scorretto, come chi uccide, chi ruba, chi commette adulterio, ma non chi si comporta bene e cerca il bene del prossimo. Eppure i figli di Dio sono odiati proprio perché fanno del bene. E, assurdo, in un certo senso non è poi così assurdo, perché già dai primi secoli dell'era cristiana, i cristiani erano odiati da tutti. Infatti, i primi cristiani erano persone che vivevano nella società e nello stesso tempo erano distinti per il loro comportamento. A conferma di questo vi è un documento storico scritto nel 130 dopo Cristo attribuito a Diognito. I cristiani non si distinguono dagli altri per una determinata cittadinanza, lingua esotica o usanze segrete. I discepoli di Cristo non si ritirano a costruire le proprie città, né si esprimono con un accento o dialetto peculiare, non fanno vita isolata, né sono contrassegnati da caratteristiche ambigue. Il loro genere di vita non è improntato da visioni utopistiche o fuginistiche, né seguono o promuovono una particolare ideologia umana. Come tutti gli uomini, abitano in città dove sono nati, adattandosi ai costumi locali nel vestire e nel mangiare, rivelando un comportamento esemplare che scaturisce da uno stile di vita paradossale. Rimangono nella loro patria, però come se fossero ospiti di passaggio. Partecipano alla vita pubblica come tutti i cittadini, ma subiscono e sopportano tutto come estranei. Si sposano come tutti, generano figli, però non praticano l'aborto. Sono molto ospitali, avendo in comune la stessa tavola della mensa, ma non lo stesso letto. Stanno nella carne, ma non vivono secondo la carne. Trascorrono i loro giorni sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Ubbidiscono e rispettano le leggi stabilite, ma con la propria vita le sorpassano. Amano tutti, e di conseguenza sono perseguitati. Mancano di tutto quello che il mondo ritiene importante ed essenziale. Però abbondano in tutto. Sono disonorati, ma nello stesso disonore sono glorificati. Tutti parlano male di loro, però non si può negare che siano integri e puri. Sono vituperati, però benedicono. Sono insultati, ma rispondono con amore. Fanno del bene, però sono puniti come criminali. Quando sono condannati a morire, si rallegrano come se avessero appena ricevuto il dono della vita. Dagli ebrei sono oltraggiati come stranieri, e dai greci perseguitati. Coloro che li odiano non riescono a motivare la loro avversione e ripugnanza. Per dirla in breve, come l'anima è nel corpo, i cristiani sono nel mondo. L'anima è diffusa per tutte le membra del corpo, anche i cristiani. Sono sparsi per tutte le città del mondo. L'anima risiede nel corpo, ma non è del corpo. Così i cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. Dunque, che i cristiani di oggi siano odiati da chi odia la verità, non è una novità, anzi è la prova che non sono del mondo, cioè non appartengono alla schiera di quelle persone che hanno un comportamento contrario al volere di Dio. Una volta realizzata l'esperienza di essere odiati perché si amano indistintamente tutti gli uomini, vi è una grande prova pratica che dà una certezza inequivocabile ai figli di Dio di essere tali, ed è quella di amare il fratello. Il termine fratello è un termine vago, perché si può attribuire al prossimo in generale, o a chi è nato dallo stesso padre e dalla stessa madre, oppure a chi ha in comune un vincolo religioso o politico-sociale, così come a un commilitone o un fratello d'arme, o a chi veste un abito in alcuni ordini cattolici. Perciò dobbiamo capire cosa intenda l'Apostolo Giovanni, impiegando tale termine. Una cosa è sicura, per Giovanni il fratello è colui che ha realizzato la nuova nascita. Nella sua stessa lettera scrive in seguito 1 GV 5.1 «Chiunque ama colui che ha generato, cioè Dio, ama anche chi è stato da lui generato, cioè chi è nato di nuovo». L'aspetto dell'amore è così importante che Giovanni ne fa uno dei tre segni del cristianesimo autentico, assieme alla fede in Cristo e all'ubbidienza, e ne parla del continuo, facendone quasi un ritornello. E questo è comprensibile, perché tutto il riassunto di ciò che Dio ha detto e vuole, Giovanni lo ha espresso mirabilmente in una sola proposizione, cioè in quella unità elementare, che esprime un pensiero compiuto. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri. 1 GV 3.23. Dunque una prova che dà la certezza inequivocabile di essere figli di Dio è avere, possedere, nutrire amore verso coloro che sono nati di nuovo da Dio e agire sempre con amore nei loro confronti. E chi non agisce con amore verso i figli di Dio? Secondo Giovanni rimangono nella morte. Da notare il verbo rimangono perché esso implica che queste persone sono già morte, cioè separate da Dio e dai figli di Dio, per cui nulla di nuovo. Queste persone sono del mondo, sono perdute, non amano Dio e i suoi figli, sono avversari del Vangelo e se vivono in questa condizione non fanno altro che avere la certezza di essere perduti. Fil 1.20. Questo è l'altro aspetto del Vangelo. Mentre il messaggio della buona notizia dà delle certezze al credente, dà pure delle certezze all'incredulo o al religioso formalista, il fatto poi che egli le accetti oppure no è affar suo. A nulla serve tuttavia il non credere ad una verità, perché la verità rimane tale, mentre l'incredulo non ne gode nessun beneficio e ne porta le conseguenze. Se io avverto una persona che il ponte è rotto, se questa non ci crede e continua la sua folle corsa, si sfracellerà. La sua incredulità si è rivolta contro di lui. Una sesta certezza cristiana: conosco l'amore di Dio perché ad Antico Testamento suo figlio. Dopo aver indicato l'amore dei fratelli come prova per avere l'evidenza di appartenere a Dio, Giovanni segnala un'altra prova di massima importanza, atta a rendere estremamente sicura un'altra certezza cristiana, senza la quale il cristianesimo sarebbe spogliato del suo più grande messaggio, cioè che Dio è amore. I cristiani, come abbiamo detto, credono che Dio nella sua essenza sia amore, perché la parola di Dio lo afferma con assoluta certezza due volte, si può anche essere titubanti. Tuttavia, nonostante sia scritto così chiaramente, e non tanto perché non si vuole credere a ciò che è scritto, ma soprattutto meno. E questa è una delle mie difficoltà perché io posso comprendere in modo errato la parola di Dio. Devo confessare che questo atteggiamento è molto caratteristico della mia vita. E anche se sembra un lato debole del mio carattere, esso invece è il più forte. Difficile spiegarlo. Solo con un esempio, forse, posso rendervi chiaro il mio pensiero. I teologi sono d'accordo nel ritenere che Dio sia trascendente, cioè al di là dei limiti di ogni conoscenza possibile. Per cui, non essendo egli spiegabile con la ragione, a volte parlandone è necessario l'utilizzo di un approccio apofatico, cioè di quei ragionamenti che indicano ciò che Dio non è. Questo metodo, usato specialmente da Dionigi l'Areopagita circa nel 500 a.C., ha certamente le sue lacune, ma spesso è molto valido. E cercare una conferma con delle negazioni, oppure con altre ragioni, o prove. Così è buono e giusto credere a quello che si capisce della parola di Dio, ma è anche utile mettere in discussione la propria capacità di comprensione, volendo vedere altri aspetti che possono confermare ciò che si è afferrato. Perché allora Dio è amore? Cosa mi può confermare con estrema sicurezza che Dio nella sua essenza divina è amore? Giovanni si esprime così. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. 1 Giovanni 3:16. Dunque, una sesta certezza cristiana riferita all'amore di Dio è data dal fatto meno, e non sono solo parole, che Cristo ha sofferto. È morto e risorto, per salvare chiunque pone fede in Lui. Se l'amore si misura per quanto esso dà, la misura dell'amore di Dio è il dono del suo unico Figlio. Dato però che si predica questo evento da ormai 2000 anni, a questo punto non fa più notizia un annuncio del genere, così parlare dell'amore di Dio a questo punto è una semplice espressione senza significato. In primo luogo, perché è stata logorata dall'uso fattone da innumerevoli generazioni ed è riferita ad eventi che i posteri non conoscono. In secondo luogo, perché definiamo l'amore di Dio secondo i nostri, non i suoi, parametri di amore. Non vi è nulla di più catastrofico. Per questi motivi, l'espressione l'amore di Dio ha finito per far parte del comune linguaggio, esprimendo di tutto all'infuori di ciò che veramente essa rappresenti. Vale la pena di fare una seria riflessione approfondita. Leggendo la parola di Dio, ho notato che essa non attribuisce all'amore di Dio quegli stereotipi nei quali cade abitualmente l'uomo. Se scampiamo ad un incidente, noi diciamo che Dio ci ha amato. Se, dopo tanto penare, risolviamo un grave problema, vediamo la mano amorosa di Dio. Se conduciamo una vita tranquilla e serena, attribuiamo tutto ciò alla misericordia di Dio. Se alcuni missionari che predicano l'Evangelo nei paesi totalitari scampano alla morte, indiciamo una riunione di preghiera per ringraziare Dio per il suo amore. Una simile visione della vita può avere anche il suo aspetto morale positivo, ma può rappresentare un grave impedimento per comprendere veramente l'amore di Dio. Non solo. Una simile visione di Dio ci porta a denunciare una buona notizia, Evangelo, che in seguito verrà rigettata da coloro che l'avevano creduta perché non corrispondente alla realtà. E ciò è comprensibile. Cosa dire di quei disastri aerei nei quali muoiono centinaia o migliaia di persone, donne e bambini compresi, come fu per il caso dell'abbattimento delle Torri Gemelle a New York? Possiamo in questi eventi parlare dell'amore di Dio? Cosa dire di certe situazioni familiari irrisolvibili nelle quali il marito picchia sistematicamente la moglie e i figli? E forse una manifestazione dell'amore di Dio, che dire di quei missionari che vengono barbaramente uccisi? Ci riuniamo lo stesso per ringraziare Dio per la sua benevolenza? Che dire quando il malvagio domina l'empio e il popolo geme? PR 29:2. Gesù, in riferimento ai malvagi e ai giusti, non ha forse detto «Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura»? E anche questo un atto d'amore di Dio? Se tutto non dipendesse da Dio, sarebbe facile attribuire il bene a lui e il male al maligno. Ma poiché è scritto di Dio che egli possiede forza e sapienza, da lui dipendono chi è ingannato e chi inganna, GB mezzogiorno e 16, e il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Lam 3 e 38, rimaniamo spiazzati, se per noi questo è il suo amore. Diciamo che possiamo anche farne a meno. Come può Dio essere amore con un mondo simile? Come questo suo amore, chi non ha mai sentito dire «non credo», nel modo più assoluto, che sia stato Dio a volere quella sciagura? Cosa rispondere? È facile affermare che sia il diavolo a compiere il male, ma se tutto dipende da Dio, se Dio è sovrano, e se, come dice il detto popolare, «non vi è foglia che si muova, che Dio non voglia», non possiamo barricarci dietro a bolle di sapone. Prima o poi esse scoppiano. Inoltre, ringraziare Dio del suo amore perché le cose ci sono favorevoli è un'offesa per chi ama Dio, per chi lo serve, pur conducendo una vita di stenti, travagliata, straziante, isolata. La parola di Dio risponde ai nostri interrogativi. La risposta offerta dalla Scrittura dimostra, ancora una volta, che gli uomini hanno scritto perché sospinti dallo Spirito Santo, 2 Pt 1 e 21. Se avessero scritto seguendo la loro logica, essi avrebbero sollevato i nostri stessi interrogativi e proposto soluzioni comuni a tutti. Poiché amore non è una parola vuota e neppure un arduo concetto filosofico, è possibile definirlo e vederlo. Quando un ragazzo ama una ragazza, si comporta in un certo modo. Cerca la sua compagnia, le rivolge apprezzamenti, le fa dei regali. Se non è accompagnato da segni tangibili, l'amore è solo un debole sentimento romantico, un'idea astratta. Così è dell'amore di Dio. Esso è tangibile e pratico. Ma quali sono i segni tangibili dell'amore di Dio? Certo, non sono i presupposti appena citati. Ecco perché la parola di Dio non si riferisce agli eventi della vita per dimostrare l'amore di Dio. Essa si riferisce ad un unico, tangibile evento registrato nella storia, a fatti che possiamo anche verificare ma ignorati e non compresi da molti. Ecco cosa leggiamo. O Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, GV 3 e 16. Giovanni è stato definito l'apostolo dell'amore. Per Giovanni, l'amore ha indotto Dio a donare suo figlio, affinché questo morisse in croce al posto dell'uomo peccatore. Un fatto concreto, dunque, ma non ravvisabile negli eventi quotidiani della vita. Proprio perché gli scrittori biblici avevano questa visione dell'amore di Dio, hanno testimoniato altrove. O Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, RM 5, 8. O in questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché noi vivessimo per mezzo di Lui, 1 GV 4, 9. Un vero amore non può rimanere inespresso, nascosto. Prima o poi si deve manifestare. Così è stato dell'amore di Dio. Esso si è manifestato nel dono del Figlio. Proprio perché noi potessimo comprendere il suo amore, Dio non si è rifatto alle circostanze della vita, perché esse sono oscurate o nascoste dal suo grande nemico, il diavolo. Una persona qualsiasi che consideri questa vita, nella quale tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, RM 8 e 22, non può ravvisare in esso l'amore di Dio. No. Ma se pensiamo che Dio ci ha creato simili a Lui, non poteva fare di più? Che causa la disubbidienza di Adamo ed Eva eravamo destinati alla perdizione eterna, che Dio non era obbligato a salvarci e che per salvarci Egli si è umiliato facendosi uomo divenendo così conoscitore della sofferenza e morto di crepacuore sulla croce, solo allora comprendiamo come Dio ci ha amati. Il nostro cuore a questo punto ha un sussulto, ma Dio che è onnisciente, che sapeva come le cose sarebbero andate perché ha permesso che l'uomo peccasse, che la sofferenza non sarebbe stato meglio impedire all'uomo di peccare, evitandogli così tanti dolori? Se il peccato non avesse condannato l'uomo, non avrebbe Gesù evitato l'infamante morte sulla croce? Non sarebbe stato questo un atto di amore, o forse il vero atto di amore? Sì, tutto poteva essere diverso. Ma non sarebbe stato l'amore di Dio. Se Dio avesse creato un essere non libero di scegliere, non avrebbe creato un essere simile a lui. L'essere umano avrebbe fatto parte integrante della creazione, nella quale ogni cosa è programmata. Creando un essere libero di scegliere il bene e il male, Dio ha compiuto un gesto gravido di conseguenze. Possiamo comprendere solo se confrontiamo la sua opera con quello che noi siamo, premesso che noi siamo fatti ad immagine di Dio. L'amore di Dio si è manifestato nel crearci liberi, e questo lo possiamo comprendere poiché anche noi creiamo per amore. Nessuno obbliga un pittore a dipingere quadri, uno scultore a scolpire una statua, un poeta a scrivere versi. Se poi l'uomo ne avesse la capacità, a tutto ciò darebbe la vita. Ma la manifestazione dell'amore di Dio è molto più profonda. Creando un essere libero, Dio rischiava di grosso, questa creatura poteva anche rivoltarsi contro di lui. Ed è quello che è successo. Approfittando della sua libertà, l'uomo si è ribellato al suo creatore. Ha scelto una diabolica indipendenza. Ma l'aver creato l'uomo libero non è ancora la vera manifestazione dell'amore di Dio. Dio sapeva che, creando un uomo libero, egli lo avrebbe rigettato. Sapeva che nella persona di Giuda egli lo avrebbe tradito e crocifisso, e, nonostante sapesse tutto ciò, lo ha creato ugualmente. Chi di noi, di sua spontanea volontà, creerebbe un Giuda o un Hitler? Dirò di più. Quale scultore scolpirebbe una statua, dandole la vita, rendendola libera, sapendo che, in seguito, questa si rivolterà contro di lui e lo ucciderà? Chi donerebbe la vita a costo della propria? Chi creerebbe i suoi assassini? Quanti genitori di figli delinquenti hanno affermato che, avendo potuto sapere in precedenza ciò che sarebbero diventati, non li avrebbero generati, o li avrebbero uccisi? E se il figlio li avesse uccisi, sapendolo in anticipo, non lo avrebbero certo fatto venire al mondo. L'amore di Dio quindi si è manifestato non tanto nell'aver creato l'uomo, ma nell'averlo fatto, nonostante sapesse di dover dare la propria vita per lui. E questo, per dei peccatori ribelli e malvagi senza speranza quali noi siamo. Vi è ancora da aggiungere un altro pensiero. Abbiamo parlato della manifestazione dell'amore di Dio, ma non abbiamo compreso in che cosa consiste l'amore di Dio. In definitiva, non conosciamo ancora l'amore di Dio del quale fino ad ora abbiamo parlato. E come per la creazione? Posso comprendere l'opera o la manifestazione del Creatore considerando la creazione, ma questa non mi mette in grado di conoscere il Creatore. Solo Giovanni, l'apostolo dell'amore, è arrivato a definire l'amore di Dio. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. 1 Giovanni 4:10. L'amore di Dio non consiste tanto nell'averci creato, anche se tale atto è motivato dall'amore. Non è tanto nel proteggerci dal male, nel darci ogni cosa copiosamente affinché ne godiamo, quanto nell'aver preso l'iniziativa di amarci, di spogliarsi della sua gloria, potenza, attributi, per farsi uomo in tutto. Dio è stato un uomo tra gli uomini, un uomo comune a tal punto che Giuda, tradendolo, ha dovuto baciare Gesù, affinché i suoi nemici potessero riconoscerlo. Il bacio più ignominioso della storia ha rivelato fino a che punto il Creatore si sia fatto simile agli uomini. Chi di noi, dopo aver creato una creatura, sarebbe disposto anche a rendersi simile a questa in tutti i suoi limiti? Così, l'amore di Dio consiste nel fatto di essersi abbassato al livello della sua creatura, di aver deciso di amarci, nel fatto che egli non ha aspettato o preteso da noi un qualsiasi gesto di attenzione nei suoi confronti, ma, nonostante tutto, ci ha creati, deciso ad offrire la sua vita per le sue creature peccatrici e ribelli. Il suo amore, EST Antico Testamento, L a sua morte. Può essere facile compiere un gesto eroico non conoscendone le conseguenze. Può essere facile fare delle scelte eclatanti quando il futuro ci è ignoto, come nel caso di Cristoforo Colombo, il quale scoprì l'America per caso. Gesù Cristo però conosceva e prevedeva tutto della sua sorte. Perciò egli era talmente pronto a soffrire, così disposto a morire, che ha deciso comunque di creare una creatura a sua immagine e somiglianza, costi quello che costi. Dio non è stato preso alla sprovvista, non è stato spiazzato, colto di sorpresa, e per questo la sua decisione di volere non ha eguali quale espressione d'amore. Questo è l'amore che dovrebbe essere oggetto, ogni momento, nei nostri pensieri. Questo è l'amore di Dio, come una fitta pioggia sull'erba, che non aspetta l'uomo e non spera nulla dei figli degli uomini. Michea 5:7. Questa è una sesta certezza cristiana. Ma l'amore di Dio non è un fatto da contemplare in estasi, non è un bell'episodio epico da narrare, ma un gesto da imitare. L'ordine di Giovanni non lascia dubbi. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. 1 Giovanni 4:11. Solo dopo aver compreso e accettato l'amore di Dio, sarò in grado di amare Dio e il prossimo come devono essere amati. Se per me l'amore è un melenso sentimento, se faccio del bene solo a chi me ne fa, se sono cortese solo con chi è cortese con me, se mi limito a questo, allora non ho compreso l'amore di Dio. MT 5:43-48. L'amore di Dio si è manifestato quando Lui si è umiliato, quando ha partecipato alle sofferenze della sua creatura. Così, anche chi è figlio di Dio deve partecipare alla sofferenza di chi soffre. L'amore di Dio si è manifestato nel fare all'uomo dono di quanto egli di più caro avesse, suo figlio. Altrettanto, nella stessa maniera, chi è nato di nuovo è obbligato a dare al prossimo quanto di più prezioso possiede. L'amore ha spinto Dio a creare degli esseri affinché potessero essere partecipi di quello che Lui ha, così anche noi dobbiamo far parte agli altri di ciò che abbiamo. L'amore di Dio lo ha costretto a creare gli uomini, anche se questi lo avrebbero crocifisso. Così, l'amore per gli uomini ci costringe a fare loro del bene, anche se ne riceviamo indifferenza o del male. L'amore di Dio è consistito nel prendere l'iniziativa di volerci fare del bene, così anche noi. Dobbiamo prendere fortemente la decisione di volere fare del bene al prossimo. Il vero amore ci è anche quando la persona che ha bisogno di essere amata non vuole. Chi ama è presente nei vari aspetti vincenti e perdenti dell'amato, è colui che ti guarda vivere e vive con te, anche in silenzio. E quello che sai che ritrovi, anche dopo averlo mollato, perché è come un solco nell'anima, quando l'hai tracciato non lo togli più via. L'amore per gli uomini è tale solo quando imita quello di Dio. Il suo amore è forte come la morte. Cantico dei Cantici 8:6. Diversamente, l'amore di Dio rimane una espressione senza senso, vuota, incapace di portare tanto nel mondo come nella vita dei credenti, quella guarigione fisica, psicologica e spirituale di cui hanno urgentemente bisogno. Ma come posso avere la certezza di amare veramente i figli di Dio? Potrei ingannarmi come tanti altri, come quelli che li torturavano, e li torturavano nel nome di Cristo? Non è vero? Ebbene, è possibile che mi inganni. Ma Giovanni presenta questa prova indiscutibile, la quale diventa una settima certezza cristiana, che se vissuta può persuadere i cuori più dubbiosi. Una settima certezza cristiana: amo i figli di Dio se amo Dio. Questa settima certezza cristiana è riassunta in questa proposizione di Giovanni. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. 1 Giovanni 5:2. Una lettura veloce o un ascolto distratto ci impediscono di comprendere esattamente ciò che Giovanni sta dicendo. Per amare il mio fratello non devo per prima cosa provare dei sentimenti positivi, fargli del bene o volerlo amare, ma devo amare Dio. Sembra strano, tuttavia è così. E tutti quelli che, al contrario, hanno cominciato con l'amare il prossimo, prima o poi falliscono nel loro obiettivo. Inizialmente provavano verso di lui dei forti impulsi positivi, in seguito, vedendone i difetti, hanno trovato impossibile sopportarli. I loro sentimenti si sono trasformati, diventando negativi, al punto da indurli a non sentire più dell'affetto, e coerenti con ciò che provavano, non si sono più interessati di loro. Ma questo non è ciò che voleva dire Gesù quando ordinò di amare il prossimo. L'amore espresso in questo modo è mettere l'accento sulla mia forza, sui miei sentimenti. E vivere ancora sotto la legge. Nessuno di noi è in grado di amare il prossimo, altrimenti saremmo come Dio. Io non sono in grado e non posso amare il prossimo direttamente, e finché non smetto di vedere l'amore come un impervio dovere diretto verso il prossimo, anziché verso Dio, continuerò ad accumulare inutili sforzi, col risultato di una vera e propria nevrosi da obbligo. Posso amare il prossimo solo se amo Dio, cioè amo il prossimo solo se il mio amore passa attraverso l'amore per Dio, se il mio amore è la continuazione dell'amore per Dio. Amo il prossimo in Dio. Amo il prossimo perché amo Dio. Il vero amore dell'uomo è triangolare, non bilaterale. La forza che spinse Paolo al servizio non fu l'amore per gli uomini, ma l'amore per Gesù Cristo, che si esprime unicamente nell'obbedienza ai suoi comandamenti. Questa visione mette in evidenza che tanti atti di altruismo, di beneficenza, di consacrazione, di ammirazione, di affetto, sono difficili da catalogare nell'ambito del vero amore per il prossimo. Si possono fare tante cose buone per il prossimo spinti da un sentimento di compassione, di tenerezza, anche da un bisogno psicologico di sentirsi utili, e tutto questo non va certamente scoraggiato. Però non possiamo chiamarlo amore nel senso cristiano. Gli psicologi hanno più volte sottolineato che si può spendere per egoismo l'intera propria vita in generosità. Spesso ci si piega all'obbedienza più per necessità che per amore. Paolo stesso riconosce che si può dare il proprio corpo a essere arso, si possono distribuire tutti i beni per nutrire i poveri ed essere senza amore. 1 Cor 13:1-3. Tutto ciò è drasticamente vero. L'amore per il prossimo rimane un'arte da imparare, il cui insegnante è lo Spirito Santo. A qualcuno sembrerà strano che per amare il prossimo debba prima amare Dio e osservare i suoi comandamenti, ma lo stupore diminuirà se pensiamo che anche l'Eterno Dio ha dovuto comportarsi in questo modo. Quando l'Eterno disse tramite il profeta Ezechiele al popolo di Israele, «Io agisco così non per amore di voi, ma per amore del mio santo nome», stava dicendo, visto che la partita era persa, considerato che per qualsiasi motivo egli amasse Israele, questo continuava a rivolgersi ad altre divinità inesistenti, allora l'Eterno ha avanzato un'ultima ragione, ma veramente ultima, per fare del bene ad Israele. Non era a motivo di loro, ma per amore del suo santo nome. Così, se le relazioni umane subiscono profondi traumi al punto da provare il desiderio di ignorare la persona amata, di abbandonare il campo di battaglia, di voler chiudere una volta per sempre l'amore a un'ultima alternativa per amare chi ostinatamente non vuole essere amato, fargli del bene non per amor suo o mantenere fede un patto, ma per onorare il nome di Dio, per amare Dio e osservare i suoi comandamenti. La conclusione alla quale è arrivato l'Eterno è la stessa alla quale è obbligato arrivare prima o poi ogni figlio di Dio: riuscire a continuare ostinatamente a voler fare del bene al prossimo o alla persona più cara, non per amore in quanto tale secondo il comune concetto attribuito a questo termine, ma perché amare significa nel suo contenuto più intrinseco onorare la volontà di Dio. E salo un traguardo a cui pochi arrivano. Chi ama opera senza sperare, né vuole alcun contraccambio, e questo è osservare i comandamenti di Dio. Sì, perché il vero amore, come sta scritto, non fa male al prossimo. Forse sarà perché sono letteralmente scioccato, ma com'è possibile sostenere di amare il prossimo quando lo si tortura perché faccia ciò che noi pensiamo, sai? Giusto. Come è stato detto, l'amore è quel principio che ci porta a desiderare e a provare piacere in un altro, di raggiungere la sua forma più elevata in quella comunione personale nella quale ciascuno vive nella vita dell'altro e trova gioia nel donarsi all'altro. Così, se vogliamo una settima certezza per sapere se amiamo i figli di Dio, guardiamo come ci comportiamo, osserviamo se ciò che facciamo per i figli di Dio è per il loro bene e per la loro felicità. Non guardiamo i nostri sentimenti, il nostro trasporto nei suoi confronti, ma il nostro modo di agire. Mi scriveva una sorella. Una lettera con parole molto pesanti e offensive, dicendomi che nonostante tutto mi amava. Io credo alla sua sincerità, ma non credo alla sua obiettività. Per quanto ne so, l'amore non offende di proposito, non si comporta in modo sconveniente. E poiché noi abbiamo una componente emotiva, occorre fare un'altra riflessione. Ciò che il credente ha maggior difficoltà ad abbandonare nelle mani di Dio è la sua vita sentimentale. Diciamolo subito. L'accettazione e la consacrazione al Signore della nostra emotività è un criterio certo di spiritualità. Amare Dio sopra ogni cosa significa anche mettere sull'altare i nostri sentimenti e lasciare che il fuoco di Dio li bruci o li purifichi. Perciò amare il prossimo, per quanto sembra assurdo, significa anche soffrire, più che provare dei sentimenti di attrazione. Ha detto Trobisch, un consulente matrimoniale, l'amore è un sentimento da imparare e, tensione completamento, è desiderio profondo e ostilità, e gioia e pena. Non cac, è l'una senza l'altra. La felicità è soltanto una parte dell'amore, meno è questo che si deve imparare. Anche la sofferenza fa parte dell'amore. E, questo, il mistero dell'amore, la sua bellezza e il suo fardello. L'amore è un sentimento da imparare. Amare significa anche soffrire nel servizio. Significa agire come colui che ha amore, il quale, quando ha amato il mondo, non ha agito animato da dei sentimenti positivi nei riguardi di questo, eppure ha dato il suo figlio unigenito. Quando Gesù venne sulla terra amò tutti gli uomini, e per essi non è detto che provò un grande trasporto, ma ha dato la sua vita per l'uomo. Il vero amore verso il prossimo non calcola. Se l'amore umano non trasporta colui che ama al di là dei suoi limiti, non è vero amore. Se l'amore è sempre discreto, sempre prudente, sempre ragionevole nel calcolare i pro e i contro, se non va mai oltre se stesso, non è affatto amore. Potrà essere affetto, potrà essere calore di sentimenti, ma non ha la particolare natura dell'amore vero. Come è stato detto, l'unica condizione per amare è amare senza condizioni. Io credo che a volte a frenare l'amore senza calcolo verso il prossimo sia proprio la paura della sofferenza. Noi vorremmo amare senza rischiare di dover poi soffrire, e così, per paura, a volte non amiamo come si conviene. Ma ecco una riflessione veramente straordinaria dello scrittore e apologeta Lewis, che merita di essere citata. Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà a soffrire per causa sua, e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, non donatelo a nessuno, nemmeno a un animale. Proteggetelo, avvolgendolo con cura in passatempi e piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo col lucchetto nello scrigno o nella bara del vostro egoismo. Ma in quello scrigno meno al sicuro, nel buio, immobile, sottovuoto, meno esso cambierà. L'alternativa al rischio di una tragedia è la dannazione. L'unico posto, oltre il cielo, dove potrete stare perfettamente al sicuro da tutti i pericoli e i turbamenti dell'amore, è l'inferno. Sono convinto che il più sregolato e smodato degli affetti contrasta meno la volontà di Dio di una mancanza d'amore volontariamente ricercata per autoproteggerci. E, vero, la mancanza della capacità di amare è simile alla condizione di vita dell'inferno e questa mancanza ci impedisce di avere la certezza cristiana di amare i figli di Dio. che i nostri sentimenti non uccidano noi né muoiano essi, gei donne. Un'ottava certezza cristiana, if Antico Testamento ti accertano se siamo nella verità, if Antico Testamento ti, non sarà mai abbastanza mettere enfasi sui fatti più che sulle parole, anche perché fino ad ora abbiamo preso atto come Giovanni esponga delle certezze basate sugli avvenimenti, perché sono i soli ad essere obiettivamente veri. E qui occorre fare una breve ma doverosa deviazione che si trasforma poi in una precisazione la quale, come vedremo, non può non essere presa in considerazione. Giovanni presenta una ottava certezza cristiana con queste parole. Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità, e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. 1 GV 3.1819. Per due volte nel suo discorso Giovanni parla di verità, una verità che ha la capacità, o il potere, di dare tranquillità al cuore del credente. E dato che se chi è una cosa rara è proprio la serenità, non vi è argomento più attuale e utile per un cristiano. L-A-V-E-R-I-T-A. Si fa presto parlare di verità, ma cosa intendiamo per verità? Esiste una verità, o ancora di più, esiste L-A verità. Viviamo in una epoca, non che sia una cosa nuova, nella quale si sente dire quello che dici potrebbe essere vero per te, ma io la penso diversamente. Oppure, il cristianesimo può essere vero per te, ma non lo è per me. Questo atteggiamento si chiama relativismo, cioè quella teoria per la quale non esiste uno standard oggettivo, cioè vero in sé, secondo il quale si possa stabilire la verità, per cui la verità varia in base agli individui e alle circostanze. Se così fosse, ma non è, allora il mondo sarebbe pieno di situazioni contraddittorie. Poiché se qualcosa è vero per me, ma falso per te, allora esistono le condizioni opposte. Se io dico il cane abbaia, e tu dici il cane non abbaia, ed entrambi abbiamo ragione, allora nello stesso momento il cane abbaia e non abbaia. E questo è impossibile. Perciò se la verità fosse relativa, l'impossibile sarebbe possibile. Oppure si può dire che se la verità è relativa, allora nessuno è nel torto, anche quando è nel torto. E quindi saggio abbandonare la posizione del relativismo per occuparci invece della natura della verità, o, detto diversamente, di cosa sia la verità, o di quando una cosa è vera. Senza questo presupposto non possiamo tranquillizzare i nostri cuori, e siamo nella disperazione più profonda. La verità è ciò che corrisponde al suo referente, cioè a ciò a cui essa si riferisce. Se io dico che il tappeto è verde, la mia affermazione è vera solo se il tappeto in realtà è verde, e non a seconda di ciò che io penso o suppongo in merito al tappeto stesso. E la realtà a stabilire la giustezza di una affermazione, e per realtà si intende ciò che esiste o non esiste. Il discorso vero non può in nessun modo causare la realtà del proprio contenuto, mentre il contenuto si presenta in certo modo come causa della realtà vera del discorso. Secoli addietro gli uomini dicevano che il Sole gira intorno alla Terra, mentre oggi dicono che la Terra gira intorno al Sole. I relativisti dovrebbero dire che queste dichiarazioni sono vere tutte e due, ma non lo fanno. Te, vera solo la seconda affermazione, ma non tanto perché l'enunciato che la Terra gira intorno al Sole faccia sì che questo sia possibile, perché si tratta dell'enunciato che corrisponde al referente, alla realtà. Ecco perché la verità è l'adeguamento dell'intelletto alla cosa conosciuta. Sono gli uomini che hanno adeguato le loro affermazioni alla realtà delle cose. E questa si chiama verità, M e Nuovo Testamento, R e l'errore e il disaccordo tra L a ragione che giudica e L a realtà delle cose. La verità è ciò che corrisponde al modo in cui le cose sono nella realtà. E dire la cosa così com'è. Mentre la falsità è ciò che non corrisponde all'enunciato, manca di una corrispondenza appropriata. Di conseguenza, dopo aver definito la verità come la corrispondenza dei nostri pensieri o affermazioni alla realtà oggettiva, il passo seguente è offrire le evidenze a sostegno di ciò che si dice. E qui si torna di nuovo ai fatti. Solo i fatti possono dimostrare le validità delle parole. Solo i fatti possono essere ritenuti reali o la verità. E per questo che Giovanni dice: figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Molto interessante. Giovanni, oltre i fatti, ordina che questi siano uniti alla verità. Ora tornano comodo i ragionamenti che abbiamo fatto. In effetti, non sono i fatti in sé a decretare la correttezza di un'azione, dato che io posso rubare e compiere un'azione scorretta. Che abbia rubato è, sì, una realtà, la verità oggettiva, ma l'azione resta comunque non giusta moralmente. Ecco perché occorre, oltre lei, la verità di un'azione, che sia anche moralmente Nuovo Testamento e giusta. Perciò Giovanni sta dicendo che abbiamo la certezza di essere nella verità solo quando azione e morale sono conformi al volere di Dio. Al tempo di Gesù i farisei facevano l'elemosina, cosa più che giusta, ma erano nell'errore perché il loro lo scopo morale non era retto. Se Giovanni ha detto di non amare a parole né con la lingua, significa che per il credente questa prassi è normale. Come conferma di questo, prendo a prestito ciò che, parlando della grazia divina, scrive James Preacher nel suo riuscito libro Conoscere Dio, e, luogo comune in tutte le chiese, descrivere il cristianesimo come una religione della grazia e una verità lapalissiana della dottrina cristiana che la grazia è un'attività personale, Dio che opera con amore nei confronti dell'uomo. Nelle scuole domenicali si sente spesso ripetere che la grazia è la ricchezza di Dio a spese del Cristo. Eppure, nonostante questi fatti, non sembrano esserci nelle nostre chiese molte persone che credono realmente nella grazia. Poi continua quel dire che ci sono persone che professano una devozione puramente verbale nei confronti dell'idea della grazia, ma tutto finisce lì. Non è tanto che il loro concetto della grazia sia svilito e che non esiste proprio, Pag. 125. Sono parole forti, ma meno male che le ha dette uno che ha girato tutto il mondo, uno che ha letto di tutto e non sono stato io. Dunque, per molti meno, forse troppi meno, il cristianesimo viene vissuto a livello verbale, senza un contenuto pratico. Ecco che allora le nostre riflessioni e il nostro insistere sulla necessità che oltre alle parole ci siano anche i fatti non sono solo necessari, ma indispensabili, perché senza i fatti compiuti secondo il volere di Dio non possiamo avere nessuna certezza, né di appartenere a Dio, né di amare i figli di Dio. Noi siamo in obbligo di verificare se le a religione che professiamo, cioè il legame che ci unisce a Dio, ci insegna cose giuste, perché è vero certamente che si prega, si canta, si compiono opere buone, ma non è detto che il nostro agire corrisponda alla verità che Dio vuole. Se non ci prendiamo questo obbligo, siamo intellettualmente disonesti, anche se convinti. Leggevo di recente un commento sull'origine del drappo arcobaleno, meglio definito bandiera della pace. È il simbolo del popolo, GLBT, movimento lesbian, gay e transessuale, creato nel giugno del 1978 da Gilbert Baker a San Francisco e esposto in molte città USA. Il quartiere gay di Castronet attezzato. Domina ovunque e viene sbandierato con profondo senso di orgoglio. Questa bandiera, sia pure con l'aggiunta della parola pace, non può essere assunta a simbolo delle istituzioni, sia laiche sia religiose. Il Dipartimento del Cerimoniale di Stato precisa che esporre il vessillo multicolore è reato e si incorre in una violazione punita dal codice penale. Perché questo esempio? Cosa c'entra il drappo arcobaleno? Perché essere convinti di una cosa non è sufficiente per essere nella verità. Anche se avessimo 100 convinzioni, ma sbagliate, queste non rendono l'errore una verità. Ecco il valore delle certezze cristiane, quando vengono acquisite servono per non cadere nel tranello dell'inganno. Una nona certezza cristiana meno è la certezza della salvezza. Vi è una nona certezza cristiana di un immenso valore per poter vivere pienamente la gioia del cristianesimo. è citata da Giovanni al termine della sua lettera. Leggiamo: «Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». 1 Giovanni 5:13. Nessuno scrive qualcosa per nulla e, dato che questa è una lettera, indiscutibilmente vuole comunicare qualcosa di importante. Giovanni ha voluto far sapere tante verità cristiane affinché i credenti ai quali si è indirizzato avessero delle certezze in merito. Quasi al termine del suo scritto l'Apostolo comunica che tutti quelli che credono nel nome di Gesù Cristo hanno la vita eterna. Una certezza, questa, unica nello svariato universo delle religioni e dell'intrigato pensiero umano. Una certezza che rende ancora una volta unica la fede cristiana. Quando i rappresentanti di qualche religione vengono a casa mia con lo scopo di farmi loro proselito, per concludere una lunga discussione, accade a volte che io dica, partendo dal presupposto che nessuno di noi due abbia ragione, oppure che tutti e due predichiamo il vero Evangelo, esaminiamo un attimo il messaggio che predichiamo. Io ho la certezza di essere salvato, mentre voi non mi garantite sicurezza per il futuro. Se tutte e due abbiamo torto, non vale la pena discutere. Se tutti e due abbiamo ragione, voi potete offrirmi di più di quello che io credo? Avete un messaggio migliore del mio? No, rispondono i miei interlocutori. Allora replico, come pretendete che io possa accettare un messaggio che mi offre di meno? Non saprei realizzare i miei interessi. La certezza di essere salvati per l'eternità è tanto lontana dal ragionamento umano che perfino molti figli di Dio non sono sicuri di appartenere a Cristo per l'eternità. E bene chiarire subito una cosa, non è salvato solo chi abbia la ferma certezza della salvezza, però chi non crede a questa promessa si priva di tante benedizioni che Dio ci ha già elargito. Succede come a 3 soldati che vanno alla guerra. Uno sa di non tornare, l'altro non sa se tornerà, il terzo invece è sicuro di tornare. Tutti e 3 combatteranno, tutti e 3 avranno le stesse fatiche e difficoltà, ma lo spirito con il quale combatteranno sarà diverso. Il primo sarà disperato, l'altro sarà sempre ansioso, l'ultimo combatterà felice e sereno. Avere la certezza della salvezza non annulla le difficoltà della vita, ma ne cambia lo spirito, produce un atteggiamento positivo verso i problemi, non ci si scoraggia. 2 Corinzi 4:16-18 e B 12:3. Dunque i primi credenti in Gesù non sapevano che tale fede li avesse salvati per l'eternità. Infatti, l'Apostolo Giovanni dovette rassicurarli così in merito, affinché sappiate che avete la vita eterna. Da quello che Giovanni aveva detto precedentemente, versetto 9-12, risulta evidente che avere la vita eterna non significhi confessare un giusto credo o appartenere a una religione, ma avere Gesù Cristo. Egli è la vita eterna. Chi ha Cristo ha la vita eterna. Chi non lo ha, non ha la vita eterna. Perché allora tanti credenti non credono alla certezza della salvezza? La risposta sembra una contraddizione. È per fedeltà alla loro interpretazione della parola di Dio. Con ciò intendo dire che vi sono nella Bibbia affermazioni che, interpretate in un certo modo, portano alla conclusione che la salvezza si possa perdere. Ma poiché abbiamo preso atto che non sono tanto le mie convinzioni e neppure le mie interpretazioni a darmi delle certezze corrispondenti alla verità, ma i fatti oggettivi, è oltremodo saggio considerare ciò che succede a chi pone fede in Cristo. Che fatti oggettivi possiamo vedere in chi ha posto fede in Cristo? Ve ne sono di 2 tipi. Invisibili e visibili. Ciò che succede nell'ambito spirituale quando uno pone la fede salvifica in Cristo da adulto è impossibile elencarlo in poche parole, e alcune cose sono state già dette. Si diventa figli di Dio, si ha comunione con Dio e i suoi figli, si conosce l'amore di Dio, si fa parte della Chiesa universale di Cristo, si è predestinati ad essere glorificati, si muore e si risuscita in Cristo, e nessuno potrà rapire chi ha compiuto un tale passo dalle mani di Dio in Cristo. Ma queste cose non sono subito visibili all'occhio umano incredulo, per cui possono essere ritenuti comprensibilmente opinabili. Nel lato pratico o visibile, invece, vi è un cammino che parla da sé. Improvvisamente chi crede nel nome di Cristo, cioè a tutta la sua opera redentrice e alla sua sovranità, odia il peccato, cioè ha una vera avversione verso tutto quello che non è giusto agli occhi di Dio. Che questo odio avversione lo dimostra nel non pregare più santi e madonne perché Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, nel non dipendere più da un capo religioso perché Cristo è il suo maestro, il suo papa, suo padre, nel non offrire più nessun culto di riparazione o sacrificio per i peccati perché crede che questi siano già stati tutti perdonati. Sono certezze cristiane che condizionano il comportamento di un vero credente. Qualcuno potrebbe anche rimanere incredulo, è vero, ma se una testimonianza verbale può anche essere contestata, i fatti no. L'incredulo ha la bocca chiusa. Una decima certezza cristiana, i figli di Dio saranno come Cristo risorto. Una decima certezza cristiana è riferita alle cose future e questa, per forza di cose, non può essere dimostrata ora, per cui è riferita esclusivamente ai credenti. Giovanni nella sua lettera ne parla al capitolo 3. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giv 3:2. Chi è un credente in Cristo non può avere solo certezze dimostrabili in questa vita. Perché il cristianesimo, così come è stato rivelato da Cristo, contiene moltissime promesse, estendibili oltre la tomba, una delle quali è che, un giorno, tutti gli uomini risusciteranno. Purtroppo, sono molti coloro che frequentano una chiesa, che cantano inni, che pregano, che leggono la Bibbia, eppure sono scettici in merito alla resurrezione dei morti. Sembra incredibile, ma personalmente ne ho una dimostrazione quando ho occasione di predicare la parola di Dio durante i funerali. Quasi tutti i presenti ascoltano volentieri, tuttavia alla mia richiesta se credono che il morto, e di conseguenza tutti i morti risuscitano, scuotono la testa in segno negativo. Questa è la grande contraddizione nella quale vivono la maggioranza dei religiosi cattolici e anche alcuni protestanti. Ma il vero credente crede alle promesse future come a quelle riguardo al presente e, per questo, ha una certezza che lo accompagna durante tutti i giorni della vita. Tutti i giorni perché, mentre vede che il suo corpo si sta disfacendo, nel suo intimo cresce uno smisurato peso eterno di gloria perché sa che dopo la morte sarà come Cristo risorto. Sì! Cristo è stato il primogenito dei morti perché tutti i risorti saranno come Lui quando risorse, con un corpo glorioso e incorruttibile. Questa nuova situazione permetterà al credente di vederlo come Egli è nella sua gloria celeste, di stare con Lui, di mangiare con Lui, di relazionarsi con Lui. Per chi non ha le idee chiare sul futuro, bisogna ribadire che il futuro non sarà piatto, senza nessun evento, dove i morti fluttueranno nel vuoto. Al contrario, sarà un'esistenza simile a questa, con case, piante, fiumi, con pranzi. LC 12.37, 22.33, MT 8.11. E con tante altre cose da scoprire. 1 Co 2.9. Di questo ne ha parlato Gesù. E se non si possono dimostrare ora queste cose, la certezza matematica rimane perché Gesù non ha mai mentito. E se non ha mai mentito, 2 più 2 fa 4, cioè è vero anche questo. Questo è il motivo per cui Gesù Cristo è la certezza del credente. E non è poco, anzi, tutto. Ora possiamo terminare le nostre riflessioni in merito alle certezze cristiane, anche se ce ne sarebbero molte altre da prendere in esame. La domanda, per esempio, di come sia possibile sapere che Dio dimora nel credente, alla quale Giovanni risponde dal fatto che sia lo Spirito 3.24. Oppure come sia possibile sapere che viviamo negli ultimi tempi prima del ritorno di Cristo, in merito alla quale Giovanni replica dal fatto che molti anticristi, cioè persone che sono contro le verità in merito a Cristo, operano fino ad oggi, 2.18. Una cosa in comune è stata ribadita in tutte le certezze cristiane, la necessità di tenere in considerazione il nostro comportamento. Gli psicologi, da ragione, dicono che i nostri comportamenti sono legati ai nostri bisogni e alla necessità di soddisfarli, per cui i conflitti di relazione nascono non tanto dal contrapporsi di bisogni diversi, ma dal modo in cui decidiamo di SODDISFARLI e gli strumenti nuovo testamentoi che possediamo per fare questo. Niente di più vero. Chi crede ad una divinità ha la necessità di conoscerla, di adorarla e servirla. E il modo di fare questo è legato alla sua cultura, alla quale gli fornisce gli strumenti adatti. Questo spiega la ragione delle tante e svariate religioni e il modo poliedrico per servire la propria diversa divinità. Questo può andare bene per tutte le religioni, ma non per il cristianesimo, perché il modo di conoscere, di adorare e servire il Dio Trino non è stato dato all'uomo secondo il suo capriccio, ma è stato ben rivelato in tutti i minimi particolari da Dio stesso tramite Cristo. E nessuno può aggiungere o togliere alcuna cosa. Questa è la ragione del perché è necessario e indispensabile studiare senza preconcetti il volere di Dio pervenuto a noi tramite la Scrittura, cioè la parola di Dio. Per cui qualsiasi forma religiosa per adorare e servire Dio deve essere in armonia con il volere da Lui trasmessoci. A nulla servono le nostre abitudini morali o religiose, 1 Pt 1.18, le proprie convinzioni, EB 12.10, né tantomeno i nostri sentimenti se questi non sono in armonia con la verità. L'Apostolo Giovanni traccia un cammino cristiano tutt'altro che basato sui sentimenti. Nella sua prima lettera egli usa il verbo sapere o conoscere almeno 25 volte per incoraggiare coloro che, a causa dei sentimenti, sono in preda all'incertezza e alla confusione, invitandoli a essere condotti dalle certezze in Nuovo Testamento lettuali che produce lei la parola di Dio. Il credente ha delle certezze cristiane perché sa e non perché sente. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui qualunque sia la cosa nella quale il nostro cuore ci condanna, perché Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. 3.1920 Che tu possa essere trasformato mediante il rinnovamento della tua mente anziché conformarti a questo mondo e perseverare sempre piene le cose che hai in Parantico Testamento e delle quali hai acquistantico Testamento. L a certezza 2 Terametri 3.14